Due sedie e 30 minuti. Ti bastano soltanto queste due cose per fare un regalo incredibile al tuo partner, a tua moglie o a tuo marito. Non parliamo più. Credo che tante coppie abbiano fatto questo pensiero ad un certo punto della loro storia, anche senza pensare a un momento di crisi vera e propria. E credo che trovare il tempo per parlarsi e per ascoltarsi non sia sempre scontato, e questo a lungo andare può portare delle difficoltà. Certo, il lavoro, i figli piccoli, i genitori anziani, impegni extrafamiliari possono a volte essere un motivo per cui si fa più fatica a trovare il tempo di parlarsi e di ascoltarsi. Ma a volte può essere la fatica stessa del dialogo che porta ad impegnarsi al di fuori in tante cose, quasi a voler rimandare quel momento in cui ci si troverà faccia a faccia per confrontarsi in modo profondo. Ma adesso non ci interessa né approfondire le cause e i motivi profondi per cui a volte la coppia non riesce a dialogare, né tantomeno ci interessa chiederci di chi sia la responsabilità. Credo che l'importante sia un po' questa consapevolezza che tutti quanti, credo, abbiamo: il dialogo, l'ascolto, il mettersi l'uno di fronte all'altro è un momento molto importante, fondamentale per ogni coppia. Quindi, questa sera, oppure appena possibile, dopo aver cenato, mettete insieme in ordine la cucina. Mettete i figli a letto, spegnete la televisione. Prendi il cellulare, silenzialo, portalo in un'altra stanza. Prendi due sedie, mettile l'una di fronte all'altro e invita il tuo partner, tua moglie o tuo marito a sedersi proprio di fronte a te. Di fronte a te, in modo che possiate guardarvi negli occhi. E poi prova a dirgli o a dirle: dai, raccontami un po' la giornata. Com'è andata oggi? Soprattutto, come ti senti? Oppure chiedigli che ti racconti di quel problema difficile sul lavoro che tanto lo preoccupa. O magari chiedi a lei che ti parli di quel rapporto difficile con quell'amica che la rende tanto pensierosa. Poi però fai una cosa: ascolta, ascolta. E basta, non giudicare, non interpretare, non incolpare, non desumere, non proporre soluzioni, non consigliare. Ascolta e basta. Se necessario, chiedi per capire meglio, ma poi lascia soltanto che ti racconti. Certo, non sempre basta soltanto ascoltare, a volte ci vuole anche un consiglio, un aiuto, un sostegno, perché no, a volte anche una scrollata. Ma credo che mai e poi mai dovremmo farlo senza prima aver ascoltato in modo veramente profondo, con cuore, con mente aperti, con il gusto di ascoltare, con il gusto di regalare all'altro il piacere di sentirsi veramente ascoltato. Ah, e visto che tutto sommato si tratta di un regalo economico, cerca di farlo spesso. Anche perché un regalo del genere non è soltanto un regalo che fai a lui o a lei, è un regalo che fai anche a te stesso e alla vostra coppia. E ascolta anche un'ultima cosa, lascia un mi piace, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale.